Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica a tutti, benvenuti a Magazine 24, appuntamento con i settimanali, con la rassegna stampa. Vi consigliamo qualcosa da leggere o anche qualche notizia curiosa qua e là, non solo i settimanali, a dir la verità, i periodici in genere, tant'è vero che questa mattina vorrei proprio cominciare da un periodico, cioè da Focus. Focus è un mensile, come sapete. Focus fa un lavoro che ci è piaciuto ad Anita Panizza e a me nel preparare questa puntata, perché sono diverse pagine con una serie di innovazioni, di colpi di genio, si potrebbe anche dire, tutti di marca italiana, cioè tutte portate da italiani. Sono 34 in totale, i più significativi colpi di genio degli ultimi 150 anni made in Italy. Io pesco qua e là, naturalmente 34 sono un po' troppi, ci occuperebbero tutta la puntata, però vi segnalo, se tutti più o meno sappiamo che il telefono si deve agli studi di Meucci, forse non tutti sappiamo invece che l'abate Giovanni Caselli mise a punto, ed era il 1856, il pannatelegrafo, che era di fatto il precursore del fax, cioè riproduceva a distanza un disegno. Oppure la carrellata che vediamo nei film, che vediamo abitualmente nei film, fu inventata da un italiano che si chiamava Giovanni Pastrone, venne adottata per la prima volta nel film Cabiria del 1914. Sostanzialmente si usa la macchina da presa su una piattaforma mobile, questo consente di spostare la cinepresa sulla scena. Oggi è cosa naturalmente di ordinaria amministrazione, ma nel 1912, quando Pastrone brevettò questo meccanismo di ripresa, era un'invenzione assolutamente originale. Così come deteniamo il primato delle autostrade, perché la prima autostrada fu la Milano-Varese nel 1924. Qui c'è un po' di rivalità con i tedeschi, non per questione di spread una volta tanto, perché in realtà esisteva già una strada a scorrimento veloce a Berlino, tuttavia questa strada veniva usata anche come pista di prova, mentre la Milano-Varese era solo e soltanto la prima autostrada della storia. Poi sempre le intuizioni italiane si devono all'aliscafo, all'intuizione del patologo Camillo Golgi di fine 1800 si deve la reazione nera, cioè un sistema di studiare le cellule nervose messo a punto da Golgi, che riuscì appunto a far progredire notevolmente queste scienze. E poi vabbè, altre cose di cui che sono più di uso corrente, come la Vespa piuttosto che la Moca, o anche le scarpe Vibram, le suole Vibram. Anche il cambio per bicicletta, che oggi è un altro oggetto di uso molto comune, si deve al ciclista Tullio Campagnolo. Nel 1935 mise a punto il cambio a bacchetta. Fino a questa invenzione, sostanzialmente, il corridore, per cambiare il rapporto, scendeva dalla bici, toglieva la ruota posteriore. Questa era la prassi utilizzata e fu appunto l'intuizione di un italiano a dare questo tipo di svolta. E poi via via si viene anche a scoperte più recenti, ma vi rimando poi a Focus per avere il catalogo completo di queste 34 invenzioni italiane degli ultimi 150 anni. Una 35esima, volendo, l'abbiamo però trovata su Vanity Fair, perché Riccardo Luna, nella sua rubrica World Wide Web, ci chiede: ma conoscete l'italiano inventore dei microchip? Ecco, l'attacco è già una risposta, dice: ormai ufficiale, ce lo siamo scordati. Non una stretta di mano, non un invito in TV, nemmeno un semplice comunicato per dire grazie Federico Faggin, perché se lei 40 anni fa non avesse inventato il microchip, oggi non avremmo i PC, i telefonini e tante altre cose. Via via poi Luna racconta appunto questa scoperta, che viene dal 1971. Faggin si era laureato a Padova, era arrivato negli Stati Uniti nel 1968 per lavorare nei laboratori della Fairchild, e appunto fu grazie alla sua intuizione che fu messo a punto il microchip. Pochi giorni fa, ci informa Riccardo Luna, è tornato in Italia. Ha preso anche una laurea honoris causa proprio nel Veneto, ha incontrato qualche blogger, ha raccontato della sua fondazione e poi è tornato in California. In realtà non tutti si sono dimenticati di Fagin e su questo dobbiamo fare una piccola nota all'articolo di Riccardo Luna, perché Radio 24 proprio ieri, se l'avete ascoltato, altrimenti potete ritrovarlo sul nostro sito, in 2024 ha intervistato proprio Fagin. Quindi qualche italiano si è ricordato di Fagin, questa radio se ne è ricordata. www.radio24.it per riascoltare 2024 nella puntata di ieri. E allora restiamo sempre sulle invenzioni, tornando su Focus, perché nel numero di novembre Focus ci racconta anche come sta cambiando e come cambierà l'automobile. Molto si deve all'elettronica, quindi un ulteriore grazie che aggiungiamo a Fagin. Sappiamo già che è di uso comune avere dei navigatori che ci dicono dov'è il distributore più vicino, dov'è la pizzeria, dov'è l'hotel più vicino. Stanno preparando ulteriori modifiche. Dal 2012, leggo da Focus, ci saranno dei software che consentiranno ai genitori di intervenire su alcuni parametri dell'auto e poter così impostare una velocità massima o anche un volume massimo della musica che si ascolta. Naturalmente non fa quasi più notizia sapere che molti dei supporti elettronici di cui disponiamo, smartphone, telefonini, lettori di MP3, lettori di file musicali, possono essere collegati all'impianto della macchina. Questo, diciamo, è oramai di uso corrente, ma quello su cui si sta lavorando e che invece è un po' più nuovo sono auto che guidano veramente da sole, cioè ci sono dei modelli che tra l'altro alcuni sono in parte già con questa dotazione, lasciano all'auto il compito di accelerare o di decelerare, magari addirittura di girare il volante per tallonare, per poter stare alla giusta distanza dall'auto che ci precede. Quando però si tolgono le mani dal volante, il sistema si disattiva da solo, è un sistema che è un po' copiato dai meccanismi di controllo degli aerei. Poi ci sono degli algoritmi matematici che sorvegliano anche i colpi di sonno, sono sempre più diffusi, si diffonderanno sempre di più e consentono, appunto, valutando lo stile abituale di guida, di vedere se ci sono invece dei comportamenti anomali e quindi di intervenire. Tutto questo su Focus di novembre, come cambiano, come stanno cambiando e come cambieranno le automobili. Tutte queste invenzioni naturalmente bisogna che poi qualcuno le prepari, e allora su Panorama, nel minuto e mezzo che più o meno ci resta prima dell'interruzione per le informazioni sul traffico, su Panorama si parla di neolaureati, meglio, si parla di neolaureate, perché in un servizio intitolato Il sorpasso delle donne, Anna Maria Angelone ci spiega che le donne studiano di più, ottengono voti alti, si laureano prima, le universitarie italiane sono migliori dei loro coetanei e la prossima sfida farsi valere sul lavoro e in politica come i colleghi maschi. E seguono poi numerosi dati, le donne sono in genere coloro che finiscono più facilmente l'università nei tempi giusti, cioè senza andare fuori corso, 169.000 e più nell'anno 2009 contro 119.000 colleghi. Tra l'altro qui si sfata un sentire comune, che è quello che vuole le donne certo con voti più alti, ma perché non affrontano alcune facoltà dove i voti sono notoriamente più bassi, ad esempio l'ingegneria. Bene, c'è una ricca tabella proprio su Panorama che dimostra esattamente il contrario. Anche nelle facoltà del gruppo di ingegneria, dove appunto le donne cominciano ad aumentare solo da meno anni, erano tradizionalmente facoltà più maschili, bene, anche qui le donne, non c'è niente da fare, si classificano con voti migliori di quelle dei loro colleghi maschi. Quindi non è più vero che le ragazze, preferendo discipline letterarie, umanistiche o linguistiche, possano poi avere voti più alti solo per questo motivo. In realtà la media totale delle facoltà ci dice inequivocabilmente che le donne sono migliori di noi. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. E allora abbiamo definitivamente capito, dati alla mano, quelli presentati da Panorama, che le donne superano gli uomini quanto a capacità negli studi universitari, prendono voti più alti, si laureano prima. Abbiamo anche nella prima parte raccontato le invenzioni italiane. Allora adesso un ulteriore sviluppo dovrebbe essere quello che verrà da internet. Sul numero dell'impresa di novembre, la trovate in edicola da qualche giorno, Mark Voss ci spiega che l'economia internet in Italia valeva nel 2010 31,5 miliardi di euro, era in crescita già di 9,5 punti rispetto all'anno precedente, erano 28,8 miliardi. Ma dice sempre sull'impresa, ancora più interessanti sono le prospettive del settore, perché si stima che da qui al 2015 la internet economy in genere possa crescere tra il 12% e il 18%. Se così fosse, arriverebbe a rappresentare, sempre per il 2015, tra i 3 e i 4 punti di prodotto interno lordo. In cifre poi faranno tra 59 e 77 miliardi di euro. Quindi prospettive molto appetibili, molto allettanti per la internet economy. Naturalmente bisognerà che poi la politica ci creda, sostenga con i dovuti investimenti questa possibilità di sviluppo. Tra l'altro l'Italia, leggo sempre dall'impresa, è al primo posto in Europa in questo momento per numero di smartphone, cioè per telefoni cellulari particolarmente evoluti. Ne abbiamo oltre 20 milioni di unità, pari al 39% della popolazione che possiede un cellulare. Cambiamo completamente argomento, ma restiamo in qualche modo in area Sole 24 Ore. Perché? Perché vi voglio parlare di Il. Da venerdì è in edicola Il, il nostro mensile, la sigla sta per Intelligence in Lifestyle. È un mensile molto ricco, già anche appunto al tatto si capisce quanto il prodotto sia ricco di cose. Ci sono oltre 220 pagine, ci sono tantissime cose dentro, io fatalmente ne devo scegliere qualcuna. Abbiamo visto qualche numero sugli italiani, allora ve ne do qualche altro. L'Italia e l'Europa, con una corrispondenza di Biondi da Bruxelles. Valerio Biondi ci informa che siamo tra i paesi che hanno più poliziotti per abitanti. Non sappiamo se poi questo corrisponda anche, questo articolo non lo dice, a una maggiore o minore sicurezza, però c'è proprio una tendenza molto chiara da una cartina dell'Europa che viene qui riproposta, per cui gli stati mediterranei hanno in genere molti più poliziotti per numero di abitanti rispetto agli stati nordici, dove i poliziotti presenti sono molto meno. Se volete trovare i numeri lo vedete poi su Il di questo mese, trovate da venerdì con Il Sole 24 Ore. Sempre su Il però vi voglio informare di un nuovo allarme ambientale, l'ozono. L'ozono è tornato a colpire, si chiede Daniele Lorenzetti, perché dice: presi da altre emergenze ce ne eravamo quasi dimenticati, però in ottobre nella stratosfera australe il buco dell'ozono ha raggiunto una superficie di 16 milioni di chilometri quadrati. 30 anni fa l'apparizione di questo buco dell'ozono colse di sorpresa tutti i modelli di previsione. Oggi non è detto che le novità siano finite. Sapete che c'è stata anche una polemica, e lo ricorda Lorenzetti, tra gli scienziati per capire quali fossero le responsabilità, quanto ci fossero responsabilità umane e quanto no. Ora questa polemica però sembra doversi accantonare per fare fronte, come dire, a questa ulteriore emergenza. Sicuramente questa zona ha un andamento ciclico, questo l'abbiamo capito, quanto l'uomo influisca invece è ancora oggetto di discussione. E allora concludiamo le segnalazioni per quanto riguarda Il Sole 24 Ore. Mi fa piacere dirvi che oggi con Il Sole trovate sia i racconti d'autore, racconti di John Cheever, nella prima edizione italiana, Fall River e altri racconti, la prima volta che vengono pubblicati in Italia. E poi sul domenicale, il settimanale appunto culturale del Sole 24 Ore, parte la rubrica di Andrea Camilleri, che diventa collaboratore fisso. La sua rubrica si chiama Posa Cenere. Sapete che Camilleri è famoso appunto per il suo costante disporre di una sigaretta. Veniamo a tutt'altro argomento, sfogliando qua e là da Famiglia Cristiana. Famiglia Cristiana ci informa che dal 12 al 20 novembre, e quindi è partita ieri, è in corso la settimana del gioco in scatola. Ora, forse la notizia non vi entusiasmerà più di tanto e non c'è da sorprendersi, perché infatti noi italiani siamo abbastanza refrattari ai giochi in scatola. Abbiamo altri tipi di giochi che sono, come dire, molto diffusi, dalla tombola alle carte. Siamo un popolo di giocatori per quanto riguarda questi aspetti, ma spiega Michele Romano su Famiglia Cristiana quanto le scatole colorate, da cui si tirano fuori tabelloni, segnaposto, dadi, quelle proprio no. Ci sono alcuni giochi che naturalmente sono universalmente diffusi, però non hanno quella attenzione, quella passione che invece riescono a suscitare in altri paesi. E infatti nella classifica europea spicca la Germania, poi viene la Francia, poi l'Inghilterra. Dopo noi italiani viene la Spagna. I tedeschi sono in particolare molto sensibili, si divertono molto con questi giochi, ne fanno un grande uso, inventano, vendono, comprano giochi da tavolo, è una delle loro occupazioni sociali ricorrenti, tanto che la sola Germania copre da sola il 17% del mercato europeo. Adesso, per diffondere un po' di più i giochi in scatola anche da noi, uno dei massimi produttori di giochi da tavolo ha lanciato questa settimana del gioco in scatola, che è in corso. Qui su Famiglia Cristiana si dà anche un'indicazione operativa. C'è un sito www.stasera-si-gioca.it che dà notizie precise su luoghi e date di questa settimana del gioco. Ci informa appunto di quando e dove si potrà giocare con questi giochi in scatola. Allora, siamo in chiusura. Paolo Corleoni questa mattina con me in regia, mi facendo che abbiamo un minuto o poco più ancora a disposizione. Torniamo su Il, che ci fa una domanda interessante: a che serve studiare la preistoria? Effettivamente ogni tanto ce lo chiediamo. Beh, invece è proprio un pregiudizio, perché Elisabetta Toia, nel suo servizio appunto presentato su Il, ci dice che la preistoria, lo studio della preistoria, è utilissimo per farci fare dei progressi sulle nostre conoscenze. Vi citavo prima il caso del buco dell'ozono. Bene, non potremmo capire nulla del buco dell'ozono se non avessimo dei dati cosiddetti paleoclimatici, dove è possibile si guarda il ghiaccio, e dove non c'è invece mai stato ghiaccio si studiano gli anelli degli alberi, quindi si fanno questi carotaggi, così si chiamano, e ci spiega anche Elisabetta Toia in dettaglio come questo avviene in Antartide o in Groenlandia. Tutto questo serve per capire anche appunto se il buco dell'ozono è qualcosa di cui ci dobbiamo preoccupare oppure no. E in attesa di ottenere questa risposta io vi saluto, vi auguro una buona domenica, ringrazio Paolo Corleoni ancora una volta che è stato con me questa mattina, grazie ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questo programma. Magazine 24 ritorna domenica prossima.